Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca. Proverbio arabo. Buongiorno, ben ritrovati nel giardino di Radio 24. Ci siamo, ormai è Natale e tra non molto saluteremo questo 2020 che certo non dimenticheremo. Periodo di feste, quello che ci aspetta, che sarà bene vivere con un buon libro, di quelli che fanno viaggiare anche se siamo in casa. Allora oggi la natura la scopriamo foglio dopo foglio in un inverno che così magicamente potrà riempirsi di rose, boschi e giardini. Vedo alberi, giardini, le navi sotto il mare, le pianure, le colline, la gente che va. Grande sole giallo, un bambino con un gallo, il sentiere, le montagne, la gente che va. Giriamo il foglio allora, giriamo il foglio ancora, giriamo il foglio e dimmi cosa ci vedi. Giriamo il foglio allora, giriamo il foglio ancora, giriamo il foglio e dimmi cosa ci vedi. I primi fogli che giriamo sono quelli de La pianta del mondo, editor di La Terza, di Stefano Mancuso, scienziato pluripremiato che libro dopo libro sta riuscendo a farci scendere dalla scomodissima punta della piramide che ci siamo costruiti fin giù al giardino che tutti meritiamo. Beh, me lo auguro perché sinceramente io ritengo che molti dei problemi del pianeta nascano proprio dall'idea dell'uomo di essere la specie dominante, la specie padrona di questo pianeta. Questo è qualcosa di cui parlo anche nel mio ultimo libro, che non ha nessuna tipo di base biologica, quindi anche senza voler, diciamo, tirar fuori nessun tipo di giudizio etico, morale su questo, ma semplicemente su una pura base biologica, dire che noi siamo la specie migliore vuol dire non aver capito nulla di come funziona la vita. Se chiedessimo a un milione di persone ci direbbero sì, certamente che io sono meglio di una mucca o meglio di un fagiolo di una muffa. Ecco, questo modo di pensare è invece biologicamente sbagliato, perché questi esseri di cui noi ci sentiamo meglio, quindi superiori, hanno invece delle capacità straordinarie. Ora, qual è l'obiettivo della vita? L'obiettivo della vita è la propagazione della specie. Questa è la prima cosa da tenere presente. Anche se noi siamo in grado di fare delle cose straordinarie come scrivere la Divina Commedia o dipingere la Cappella Sistina, se domani dovessimo scomparire non interesserebbe a nessuno che siamo stati in grado di fare queste cose. Il primo obiettivo di una specie è la propagazione della specie. Da questo punto di vista l'uomo è una specie giovanissima, soltanto 300.000 anni, e se la mettiamo a paragone della vita media delle specie su questo pianeta, che è 5 milioni di anni, dobbiamo chiederci, ci arriveremo noi a 5 milioni di anni? Bah, io così, abbiamo dei dubbi anche su scadenze molto più brevi. Esatto, qualche dubbio lo solleverei, certo. Invece il regno vegetale è sul pianeta da milioni di anni e lo ricopre quasi completamente, perché poi, come lei ci insegna, l'85% del peso vivo sulla Terra è costituito da questi esseri viventi che chiamiamo piante. Sì, certamente, noi guardiamo alla vita dal nostro punto di vista sempre umano o al massimo animale, diciamo così, ma è che è chiaramente estremamente minoritario. Noi siamo soltanto lo 0,3% in peso di tutto quello che è vivo. Le piante hanno dimostrato nel corso della loro storia, in parte attraverso i numeri, appunto riuscendo a raggiungere l'85%, che la vita di questo pianeta è di fatto una vita verde. Cioè, noi abbiamo questa visione realmente terribilmente presuntuosa della nostra posizione nel mondo, no? Per esempio, ora parliamo molto di antropocene perché siamo diventati una specie che è in grado di modificare le sorti del pianeta. È vero, ma allora perché non abbiamo mai parlato, che ne so, di plantocene, visto, o di fitocene, che dir si voglia, visto che le piante sono davvero la vera forza tellurica. Se non ci fossero le piante non ci sarebbe addirittura vita sulla Terra. Quindi noi abbiamo sempre questa visione un pochettino distorta che passa attraverso la lente dell'umanità, che è inevitabile, che però insomma qualche volta potremmo fare uno sforzo per superare. Si parla anche di questo nell'ultimo libro, La pianta del mondo, il titolo, edito da La Terza, e si parla di piante. Un'altra capacità che lei ha è appunto di avvicinarci al mondo vegetale, facendocelo conoscere sotto un altro punto di vista. Ci fa un po' cambiare anche la filosofia, possiamo dire. Sì. No, volevo solo aggiungere che questo, secondo me, porta moltissime persone poi ad avvicinarsi anche alle problematiche dell'ambiente, al riscaldamento globale, perché si parla di plastica, di emissioni, di CO2, ma semplicemente avvicinandosi, scoprendo le piante e amandole, ecco, questo fa scattare, a mio parere, in automatico la volontà, la determinazione di difendere il pianeta che abbiamo intorno. Beh sì, è proprio uno dei motivi per cui scrivo di piante. Cioè, tutti quanti noi, prima di tutto, comprendiamo soltanto ciò che è vicino a noi. Cioè, più una cosa è vicina a noi, più noi siamo in grado di capirla. Più è lontana da noi, più non, per noi è completamente impossibile riuscirne a capirne le finalità. E se non riusciamo a capire un qualcosa, è anche impossibile amarla. Allora, credo che sia fondamentale, invece, riuscire a rendere vicino a noi il mondo delle piante, perché è un mondo terribilmente alieno. Però se continuassimo a guardare le piante come qualcosa di prossimo all'inorganico più che a noi stessi, beh, allora continueremmo appunto a distruggere le foreste, continueremo purtroppo a distruggere le foreste, gli ecosistemi, tutti i luoghi da cui dipende addirittura la vita di tutti gli esseri viventi del pianeta. Allora penso, magari mi sbaglierò, che cercare di rendere le piante più vicine a noi, cercare di farle comprendere agli uomini, sia il primo passo per poterle rispettare. Cioè, alla fin fine, noi rispettiamo soltanto ciò che comprendiamo, non il resto. Allora io direi, per ogni libro acquistato acquistiamo anche una pianta, oppure seminiamone una, l'effetto sarà amplificato. Sarebbe straordinario, sì. Dopo La pianta del mondo di Stefano Mancuso, ecco arrivare una giornalista scientifica, la quale proprio con Stefano Mancuso, ormai qualche anno fa, ha scritto il bestseller Verde Brillante, che ha aperto gli occhi di tantissime persone sulle piante. Sto parlando di Alessandra Viola, che con il suo ultimo libro Einaudi, Flower Power, le piante e i loro diritti, in cui vi assicuro sui vegetali si scopre un mondo, ha già vinto il premio Gambrinus. Il libro in realtà parte proprio da quello precedente che giustamente ricordavi, perché Verde Brillante sostiene la tesi dell'intelligenza delle piante e oltre a dire cose molto note, cioè che le piante sono dotate di sensibilità, che hanno tutti i sensi che hanno gli uomini e anche altri, che sono dotate di abilità sociali, che riconoscono i parenti, che sono in grado di comunicare, che hanno memoria, che imparano, ecco, Verde Brillante sostiene appunto la tesi dell'intelligenza e dice le piante sono anche intelligenti. Allora, partendo da quelle riflessioni lì, io mi sono avvicinata al tema dei diritti chiedendomi, ma insomma, se le piante sono degli esseri viventi così straordinari e in più oltretutto la nostra vita, come quella di tutti gli animali sul pianeta, dipende da loro, com'è possibile che tutti abbiano dei diritti? Gli uomini, le donne, i bambini, gli anziani, i malati, i carcerati, non so, gli animali, e proprio le piante no? E a partire da questa riflessione è nato Flower Power. Lo sai che la tua appare come una proposta provocatoria? Intendo dire, in un momento in cui il pianeta è in allerta per la salute umana, per un evento inaspettato che ci ha sorpresi e intrappolati, qualcuno si chiederà, e noi siamo qui a parlare dei diritti delle piante, di questi esserini immobili e silenziosi, ma perché? Allora, esiste un legame, per esempio, tra diffusione delle pandemie e deforestazione. E non lo dico io, lo dicono tante ricerche scientifiche, lo dice in ultimo un report del WWF che è stato pubblicato abbastanza di recente, che sostiene appunto che quando noi andiamo a deforestare, in particolare le zone più antiche di foreste, diciamo, primarie del pianeta, ci avviciniamo molto pericolosamente a dei virus che possono a quel punto compiere il salto di specie, come è stato il caso del Covid, e avvicinarsi a loro volta all'uomo, uscire dall'equilibrio nel quale si trovano. Se noi rispettassimo i diritti delle piante smettendo di deforestare, che poi è un bruttissimo modo per dire che uccidiamo milioni, centinaia di migliaia di esseri viventi, perché questo sono le piante, sono esseri viventi, se smettessimo di commettere questa strage orrenda che è appunto distruggere le foreste, saremmo molto più sicuri anche noi, perché le piante ci proteggono dai virus. Adesso addirittura ci sono delle ricerche che cercano di dimostrare o di capire se esiste una correlazione tra la protezione dal virus e la vicinanza alle piante. E questo è per quanto riguarda il virus. E poi c'è la questione delle minoranze. Allora, il fatto che noi lottiamo ancora oggi per i diritti dei neri ci deve semplicemente fare ricordare che i diritti non sono una cosa acquisita una volta per tutte. E dobbiamo pensare che questi diritti in realtà sono una conquista molto recente, che fino a un secolo e mezzo fa esisteva la schiavitù e quindi i diritti dei neri non esistevano e i neri erano considerati proprietà, proprio come oggi noi consideriamo le piante. Per noi le piante oggi giuridicamente sono oggetti di proprietà di qualcuno, e questa situazione è semplicemente insostenibile nell'ottica di quello che abbiamo detto prima, cioè che le piante sono dotate di capacità di scelta, di intelligenza, eccetera. Non si può pensare che questi esseri viventi siano di qualcuno e che questo qualcuno possa disporne a suo piacere. Dunque, i diritti vanno assicurati alle piante perché sono esseri viventi esattamente come noi, ma non volendo considerare questo, il motivo potrebbe essere semplicemente egoistico, cioè se non preserviamo, se non proteggiamo le piante, ne va anche della nostra vita, nel senso, sparissero loro, spariremmo anche noi, cosa che invece non succederebbe all'inverso. Esatto, noi ci estingueremmo in pochissime settimane senza le piante, e le piante invece vivrebbero benissimo senza di noi, erano già sul pianeta prima che la specie umana comparisse, quindi non c'è dubbio. Però adesso è un periodo in cui si parla tanto di questo Green New Deal, no? Di questo nuovo piano che abbia a che fare con l'ambiente. Ecco, questo non è una rivoluzione dal punto di vista economico, è una rivoluzione culturale, sulla quale però potrebbe efficacemente innestarsi poi un progetto più ampio, perché se ci mancano i riferimenti ideali diventa sempre soltanto una questione di commercio, di convenienze. Questo non ci aiuterà a costruire una società migliore, un rapporto più equilibrato e più sano con le piante, e io credo che attraverso quello passi anche la nostra felicità, non solo il nostro benessere. Se con libri come Flower Power possiamo volare pensando a rivoluzioni culturali, col prossimo libro torniamo coi piedi per terra, perché se è vero che gli alberi, tanti alberi, rappresentano l'arma più potente che abbiamo contro il riscaldamento globale, è altrettanto vero che proclami di piantumazione di migliaia, se non milioni, di nuovi alberi in città devono essere accompagnati da un piano strategico ben preciso, pena la vanificazione completa del progetto. Lo spiega molto bene nel libro dal titolo La terra salvata dagli alberi, un'eminenza internazionale dell'arboricoltura, il professor Francesco Ferrini. Esatto, cioè meglio piantarne un numero, sì, molto elevato, questo è chiaro, più ne piantiamo e meglio è, però dobbiamo pensare anche poi a dare loro le necessarie cure per garantire non solo che sopravvivano, ma che anche crescano abbastanza velocemente, rapidamente, che rapidamente ci forniscano tutti quei benefici che tutti noi ormai, credo, conosciamo. I milioni di alberi, che poi sono dei piccoli alberelli, dei semenzali di pochi centimetri, destinati a morire purtroppo con questo clima che ci da estati sempre più lunghe e sempre più siccitose, è, diciamo, un qualcosa che è solo spreco di denaro, perché magari li spendiamo il solito denaro piantando meno alberi ma garantendo che essi sopravvivano. Perché poi gli alberi sono un investimento. E sicuramente non c'è dubbio, questo finché penseremo al verde urbano, sia pubblico che privato, come a un costo, è chiaro che non andremo a nessuna parte. Quando cominceremo a parlare di un reale investimento che ha un ritorno economico, è chiaro, non immediatamente monetizzabile, ma il benessere, il beneficio economico che la piantagione di alberi ci dà è molto molto superiore all'investimento che noi facciamo per piantarli, vale a dire è come se noi mettessimo i soldi in banca o li dessimo a un broker molto bravo e questo dopo qualche anno ci restituisse i nostri soldi moltiplicati per 10, 20 o 30, perché questo è ciò che fanno gli alberi, cioè i soldi che noi investiamo nella loro impianto e gestione ci vengono restituiti moltiplicati per 10, 20 o 30 volte. Ma ecco, tutto questo i comuni, gli enti locali lo sanno. Lei diceva che questo libro, e lo è, questo non è un libro per specialisti, anzi a mio parere è adatto anche a chi vuole adesso cominciare a avvicinarsi agli alberi, magari dopo averli guardati per lungo tempo durante il lockdown dalla finestra, no? Ma secondo me è un libro adattissimo anche per farlo girare, diciamo, nei comuni italiani, negli uffici del verde, se ci sono ancora. Quello sarebbe lo scopo, lei ha perfettamente centrato quello che è lo scopo del libro. Un libro nato proprio durante il lockdown, l'ha anticipato all'inizio, ci siamo un po' in qualche modo chiesti con l'amico e collega Ludovico Del Vecchio che c'era un vuoto, una specie di vuoto, e quindi abbiamo cercato di scrivere un libro proprio perché ci sembrava necessario mettere queste cose per iscritto e che anche il cittadino potesse andare all'amministrazione comunale e dirgli: guarda cosa c'è scritto qui, perché tu non lo fai? C'è anche il decalogo appunto per gli amministratori su ciò che dovrebbero secondo noi fare durante l'amministrazione, che di solito dura 5 anni, cioè di lasciare in qualche modo un ambiente cittadino migliore di quello che hanno trovato al momento del loro insediamento. Merry Christmas, I don't want to buy tonight. Merry Christmas, I don't want to buy tonight. Merry Christmas, I don't want to buy tonight. Ci risentiamo tra un attimo per altri consigli su giardini da custodire in tasca. Il giardino segreto. La rosa è una lente attraverso la quale si può mettere a fuoco la storia del mondo. Ernesto Ferrero. Perché dunque non contornarsi di rose leggendo in questo inverno? Pensate che Anna Peron, storica vivaista di rose, ha cominciato ad amarle 40 anni fa solo dopo averle trovate su un catalogo inglese elencate e descritte in maniera eccellente. Ecco cosa possono fare i libri. Anche per questo, sotto lockdown, Anna Peron ha scritto Il romanzo della rosa, ADD editore. Esatto, è quello che ho voluto fare per dare anche la possibilità a chi non ha nemmeno un giardino né una pianta di rose sul balcone di conoscere tutte le storie che stanno dietro a questo fiore. Invece chi le possiede, chi le ama, chi ha un rosetto, chi ha delle rose in giardino, farle conoscere tutto quello che sta dietro una rosa. Una rosa, come ha detto bene nell'introduzione Ernesto Ferrero, la rosa è una lente attraverso la quale si può mettere a fuoco la storia del mondo. Io ho capito una cosa di Anna Peron e dei suoi 40 anni di vita con le rose, che Anna Peron fa volentieri a meno delle rose blu, che invece sono rincorse ormai da secoli, no? Da alcuni ibridatori, alcuni vivaisti, che ha, vabbè, un debole naturalmente per le rose antiche rispetto alle moderne. Sì, ma anche perché sono le rose che io coltivo e che ho imparato a conoscere e a ottenere da loro il meglio con abili sostegni, archi, trionfi, catenarie e altri tutori per queste rose, che permettono anche di creare una parte decorativa in giardino. Parlando di rose antiche, ci riferiamo ad esempio alle galliche, alle muscose, alle centifoglie, alle bourbon, alle noisette, e poi ci sono le rose moderne che arrivano, possiamo dire, dal Novecento in poi? Sì, sì, è stato stabilito che dopo il Novecento le rose sono rose moderne. Rose moderne che a un certo punto hanno soppiantato quelle antiche, che invece hanno fatto innamorare per secoli, però sia rose antiche che rose moderne derivano tutte da loro, dalle rose selvatiche, le cosiddette botaniche, quelle che esistono in natura, quelle molto semplici. Sicuramente le rose botaniche, le rose spontanee sono state le capostipiti. Infatti nel tracciare, diciamo, un albero genealogico dalla rosa si parte dalle prime tè, la gallica, la moscata e la damascena, e si scende giù e si iniziano gli incroci con altre rose, le cinesi, fino ad arrivare alle rose contemporanee, che sono poi le rose ibridi moderni di tè, le floribunda, le rose poglianta, che sono di nuovo delle rose moderne. Le rose noi vorremmo portarcele a casa, anche se non siamo dei giardinieri provetti e anche se non abbiamo un giardino. Abbiamo Anna Peron, vogliamo un consiglio per rose da vaso da città che eventualmente siano anche facili da coltivare, con cui iniziare per innamorarcene. Allora, ci sono due rose che consiglierei per chi appunto ha solo un vaso sul balcone, e sono la rose rugose, che sono sempre in fiore, ce n'è di tutte le dimensioni, per cui uno può anche avere un vaso non eccessivamente grande e prenderà una Frau Dagmar Hartog. Se ha dei vasi di un diametro di almeno 40 cm di diametro o anche di più, o delle fioriere, ci sono altre varietà.